Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Il crononauta è incagliato in un ricordo, bloccato nel tempo da una pellicola che non si sviluppa. È uno scatto di gruppo, una gita al mare, una foto di classe, una serata alcolica. I colori prendono lentamente forma e il crononauta individua i contorni. È l'immagine di una nuova era, quella dei giovani e belli, dei concerti senza strumenti, dei prodotti musicali creati ad arte per i giovanissimi. È la foto di una boy band. E allora riprende il viaggio, anno dopo anno, canzone dopo canzone, gruppo dopo gruppo, in una raffica di scatti col flash. 1963. Tito e Jackie hanno di nuovo rubato la chitarra di papà, come ogni volta che va al lavoro e li lascia a casa da soli a badare agli altri fratelli. Solo che questa volta Tito ha rotto una corda e quando torna papà sono cinghiate. C'è solo un modo per non farlo incazzare: imparare bene una canzone e fargliela sentire. Magari il piccolo Michael può ballarci sopra e saranno così bravi che il signor Jackson non li punirà. Già, il piccolo Michael, così piccolo che conosce a malapena ABC e Do Re Mi. Avanti nel tempo, nell'Italia degli Yuppies e dei Camperos, we'll be right back. 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. What you have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends ain't listen to the things I say. They listen and they hear more every day. They never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Dalla parte a stelle e strisce dell'Atlantico, i New Kids on the Block sono la cosa più nuova sotto il cielo e i cazzi mosci britannici non possono sopportarlo. Così fanno un'audizione per creare un gruppo identico e selezionano uno che vernicia carrozzerie, un ballerino di breakdance, un impiegato di banca, un hooligan adolescente e uno scrittore di inni sacri. Un ammasso di stronzi, direte voi. E invece no. I guess not fine. For me to give up, I think it's time. Got a picture of you beside me, got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Didn't mean it. I just want you back for good. Want you back. Want you back. Want you back for good. but underlined. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of my mind, celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Dopo in Italia. Questo fosse vero amore, vero amore, tu non mi lasceresti mai. Non c'è bisogno di parole per spiegare, no. Quello che voglio lo sai, adesso dimmelo semplicemente, se veramente mi vuoi. C'è

1993, Orlando, Florida. A due passi dall'International Drive c'è un mercatino delle pulci. Dentro ci trovi un po' di tutto: t-shirt, borse, reduci del Vietnam, narghilè, cibo di strada. I ragazzini ci fanno avanti e indietro tutti i pomeriggi. Alcuni fumano, altri studiano, molti guardano le ragazze, altri cantano e ballano. Il mercatino si chiama Backstreet Flea Market e alcuni dei suoi ragazzi stanno per diventare famosi. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Anni in Italia. Le ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure, qualche volta confondono la bugia e la verità, seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà. Sono treni in corsa che nessuno fermerà, no. Le

momento nella realtà italiana. Watching around the world from the site where legends are made. Ladies and gentlemen. Senti sintomi, segui i suoi battiti. Su nastri, giri, play con i suoi dischi. DJ ok, qui si può fare un party. Guardi gli altri salti, gli arti si sciolgono e sulla pelle sale un brivido. Basta un beat, sintonizzati. Frequenza in stereo, GDP. E mo lo sai, è musica. Lei non è età. Non ha epoca, è la tua musica. Italia-America, non c'è diversità, solo lei rispolvera. I ricordi ti dà, emozioni che provi. Non ti tieni, ti muovi perché lei è musica. Non sono una boy band, noi ce ne sbattiamo e la suoniamo. New Sensation. istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Oggi su Radio 105 vi parliamo di boy band. Questa canzone è la dimostrazione che la musica non ha tempo. Infatti i Ramones sono tutti morti, tranne la loro Blitzkrieg Bop. In ogni fottuta scuola del mondo c'è una band di compagni di classe che si mette insieme per suonare cover strasentite e raccattare due lingue dalle fighe ubriache. Perfino in questo buco cacato dell'Irlanda, in una città così piccola che non c'è nemmeno sulle cartine, famosa per quattro merdose conchiglie che sono anche dure da mangiare. Perfino qui ci sono cinque adolescenti che schitarrano e canticchiano. Solo che se passa di lì l'ex produttore dei Boyzone, può capitare che la tua vita cambi radicalmente e che per caso diventi Westlife. Always the Nel frattempo, in Italia. Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa. Accida come di più non si può, di più non si può, come un accido. Mi sento grande, come una città, un gigante. Accido sono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è? Accido sempre, accido per me, accido per te, accido cos'è? Essere scartati ad un'audizione è davvero una rottura di coglioni. Ti senti inadeguato, perdente, fallito. Ma nella vita c'è sempre una seconda possibilità. Così Anthony e Lee, dopo che metà delle case discografiche inglesi li hanno sfanculati, hanno un'idea: riunire tutti quelli che sono arrivati secondi alle audizioni e mettere su una band di falliti per portarla fino in cielo. Un cielo molto blu. Contemporaneamente in Italia. Londra. Ai bootcamp di X Factor c'è un casino di gente. Zayn è in coda, ha il numero 1322. Prima di lui ha visto passare di tutto e ogni faccia gli è sembrata più predestinata della sua. Non può farcela da solo. Né lui né tutti gli altri pivelli col numerino in mano che camminano avanti e indietro. Gli conviene accettare la proposta di Simon Cowell, mandare a fanculo la sua carriera da solista e accettare di far parte di una boy band. Sì, è decisamente questa la scelta giusta. È l'unica direzione. Alla fine in Italia. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché. La boy band dell'Italia di oggi canta la musica dell'Italia di ieri. Un riflesso che racconta molto di una nazione che ha rinunciato ad andare avanti per continuare a voltarsi indietro. E non solo per nostalgia, come noi che scattiamo in Polaroid. Istantanee di storia della musica torna domenica prossima alle 23. Alle 23 su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.